And when you're right. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Accendi, accendite computer, accendite, dai, accendite, perché non ti accendi? Computer, computer, non si accende, non si accende. Ah, si è acceso, si è acceso. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna. Andata la fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! O te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! Ah, belli de casa, belli de casa. Io mi propongo sempre di fare le sostituzioni quando poi non c'ho niente da dire, non c'ho niente da fare. E soprattutto stamattina è veramente complicato. Tutte le mattine ci alziamo alle 5 e mezza con la svegliezza e la prontezza, ma veniamo fuori da un weekend dove non abbiamo fatto un cazzo. E quel non aver fatto un cazzo ci ha gratificato l'anima. E quindi stamattina è stato un trauma, è stato un trauma. Ed è complicato, diciamo la verità, abbastanza complicato, ma ce la possiamo provare a fare, non ce la facciamo, ma ce la possiamo provare a fare. E però, insomma, quando il lunedì inizia un po' così, ho dovuto un po' biastimare, perché a 30 minuti, insomma, dalla live, il computer non ne voleva sapere di accendersi. Non partiva, si fermava, insomma, al riavvio di Windows. Di solito quando è così c'è sempre qualche casino. Hardware, software, strand, waters, e smanettato un pochino fino a che sono riuscito a farlo partire. Ma in realtà anche questa volta pensavo che fosse uno degli hard disk esterni, infatti ho staccato tutti gli hard disk esterni, era quasi mezzo partito, ma in realtà era la tastiera. Cioè la tastiera, che questa tastiera è rotta e dà un sacco di problemi, e a Runtime Radio non riusciamo a comprarci una tastiera. Quindi questa mattina la mia missione è comprare una tastiera, visto che qualche soldo nella cassa di Runtime c'è, lo sfrutto per comprarmi la mia tastiera, va bene? Quindi spero che questa cosa non vi dia assolutamente fastidio, ma anche se qualora dovesse darvi fastidio, anche sti cazzi, come dicono quelli che d'altronde, che sia buongiorno un cazzo, un paio di parolacce bisogna anche dirle. Buongiorno a Walter, buongiorno a Francesco, buongiorno a Michela che mi sta per portare il caffè, grazie a Dio, perché sennò sarà veramente difficile. Metto il primo brano copyright, non Creative Commons. Tra l'altro avete notato, insomma, che la qualità della musica in generale sta crescendo, sia per la continua e costante selezione e inserimento di nuovi brani, sia, insomma, per questa cosa di Epidemic Sound che insomma ci sta molto aiutando, anche se durerà solo due mesi questa cosa. E tra l'altro la stiamo comunque usando in maniera impropria, diciamoci la verità, perché noi comunque se non la facciamo un po' irregolare non siamo contenti. Metto il primo brano copyright, ne metto uno a caso, non so proprio minimamente cosa scegliere questa mattina, quindi vi beccate il brano a caso e speriamo che vi piaccia. Il mio nome è Tremoto Bengo, dalla lontana Repubblica Democratica Filippina. Avete già ascoltato la mia voce nel disco long playing di questo simpatico plessino. Ricordate? Ginang e Gino, eccetera. Ma c'è un momento per ridere e un momento per pensare, e questo è il mio momento di pensare. Elio come Manzutin mi dà l'opportunità di parlare di un problema che ha amegreggiato e moltiplicato tutto il mio paese. In pratica, la nazionale calcistica filippina non è stata invitata e partecipare ai giochi mondiali e sono stati così vanificati anni e anni. Preparazione, atletica e impegno. Non immagino che sia carina come cosa, però non era quello che volevo assolutamente mettere, perché chiaramente si è resi conto che è un qualcosa che c'ha a che fare con Elio, ma non è un brano, ma è tipo un intro, e quindi cambiamo brano. Intento celebrare la figura di campione. Vabbè, mi piace questa canzone. Stamattina tutto storto, attenzione, tutto molto storto, 99 posse, salario garantito, però praticamente questa è la Abocacopa version, non so che significa, perché naturalmente non parlo lingue straniere io e quindi non posso assolutamente, insomma, come dire, capire di che cosa si tratta. No, non parlo di Djokovic questa mattina perché ancora le cose vanno avanti, pare però che io non mi sono informato, questa puntata è veramente molto random. Ciao Claudia, benvenuta questa mattina insieme a noi tra gli ascoltatori dell'Antem Radio. E dicevo che visto che da quello che ho capito io la magistratura ha dato ragione a Djokovic, però il governo si è comunque impuntato, perché sapete che nel mondo britannico questa grossa separazione tra la politica e la magistratura esiste relativamente, cioè esiste fin quando non gli fai rodere il culo al governo. E anche se io sono dalla parte del governo, chiaramente, perché secondo me se ne deve andare a casa, anche se c'ha ragione lui, se ne deve andare a casa uguale, per ragioni di cui non voglio parlare. Questa mattina non parleremo di vaccini, non parleremo di chi c'ha ragione e chi c'ha torto, forse parleremo di tamponi più in là, ma semplicemente perché abbiamo un inviato sul campo e quindi diciamo se riusciamo a fare un collegamento. Per il resto invece intanto vi dico che essendo lunedì Runtime Radio inizia insomma con la sua programmazione grazie a questo episodio sconclusionato e senza nessuna ragione di esistere, ma soprattutto questa sera insomma si riparte alla grande con OGM, quindi i ragazzi di OGM questa sera alle ore 21 daranno il meglio di loro con tutto quello che insomma è stato detto e fatto durante queste settimane. Insomma, io penso che di materiale assolutamente ce n'è. E poi domani sera in teoria ci dovrebbe essere finalmente questo benedetto speciale di Ciao 2021 con Michela, Luca Casciola, Carlo Sant'Agostino e anche Puccio Carmine Console, quindi insomma c'è già materiale per questa settimana. E poi quando eravamo futuro invece giovedì alle 21.30, non è ancora stato stabilito il tema, ma insomma ci organizzeremo, mentre tutte le mattine dalle 7 alle 8 vi ricordiamo insomma che vi diamo sempre la sveglia. Questa mattina ci sarebbe dovuto essere Leo, così come c'è il mercoledì e il venerdì, poi martedì, quindi domani, c'è Michela con Disordinati Informati, e giovedì ci sono io con Buongiorno un Cazzo, mentre che il martedì, il mercoledì, il giovedì all'ora di cena, insomma verso le 20, c'è Walter Sbano con Le Orazioni della Sera, che tornerà finalmente nella sua versione originale, quindi tutto il fioretto, tutta la cosa fatta e detta insomma per quanto riguardava le feste di Natale, quindi non parlare tanto di quel tema, anche se nell'ultima puntata ha sbragato, mi dispiace dirlo, ma ha sbragato, però insomma ritornerà anche lui nella sua versione originale. Detto questo, invece c'è una serie di cose collaterali a Runtime Radio, quindi tutto quello che è un po' il background, no? Per esempio, prestissimo, allora ci sono due video in lavorazione, uno è in ritardo e l'altro è in grandissimo ritardo. Uno è quello che sta per uscire insomma brevissimo, che riguarda insomma We Want to Live in a Box, che come sapete ha smesso di fare videini dei viaggi, perché noi non facciamo più viaggi, ma abbiamo deciso di fare dei film tematici di 30-40 minuti a seconda del materiale che raccogliamo, dandogli insomma una coerenza. Intanto cambiamo la base, perché qui insomma è finita la base sotto del salario garantito, che continuava ad andare avanti per la sua strada. E quindi a brevissimo uscirà questo bel film. Secondo me è venuto fuori un bel lavoro. Si chiama Un'estate da cani, quindi è la nostra prima vacanza fatta a segmenti insieme a un cane. Quindi diciamo anche la nostra esperienza, raccontiamo anche come secondo noi va gestita la questione. E poi c'è il famoso museo dell'intrattenimento elettronico di Avezzano, quindi il documentario di archeologia informatica, che viene subito dopo, ma entrambi i lavori sono praticamente in ritardo, solo che non potevo spostare l'ordine prioritario, perché sennò mi si incasinava un po' tutto, soprattutto a livello cerebrale, insomma, quindi è una cosa abbastanza delicata, insomma, cercare di non spostare gli equilibri del mio cervello, perché insomma Porino sta lì e fa fatica a volte insomma a riuscire a tenere tutto a bada. Cioè, queste sono un po' le cose che succederanno insomma nelle prossime settimane, ma soprattutto nei prossimi giorni. Mentre, dato che c'è Claudia in chat, ho visto che c'era Claudia, diciamo che adesso verrà contattata durante questa settimana, perché c'era questa idea di fare lo speciale di quando eravamo futuro su Dottor Who, e quindi la contatteremo e ci organizzeremo per le prossime settimane, quindi non nell'immediato, insomma un po' il tempo di organizzarsi, e sicuramente insomma verrà fuori una bellissima puntata. Detto questo, ragazzi, arrivo subito. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. As a cliche, we're on the run. This is what we waited for. Oh, take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. ovviamente tutti quelli che un po' ci seguono, diciamo così, e che seguono YouTube, seguono anche altri personaggi su YouTube, avranno riconosciuto il pezzo Be Free, ovviamente, da Epidemic Sound, e si sente ovviamente sempre la differenza, ed è un po' la colonna sonora portante di Step Over, un canale YouTube che parla appunto di questi di questo marito e moglie, questa coppia che oramai da tantissimi anni girano il mondo tramite un truck, non sarebbe il caso, proprio un camion che hanno adibito a casa rotante, come dicono loro, come si dice anche in spagnolo, quindi praticamente in un mega camper, con il quale ovviamente loro continuano il loro giro del mondo, che poi il giro del mondo si è un po' fossilizzato nel Sud America, diciamo così, non è più tanto il giro del mondo, però io è tanto che non li seguo più, perché come tanti canali YouTube, quando raggiungono un certo tipo di popolarità, diciamo che smettono di comportarsi in maniera naturale, quindi di parlare di cose che interessano, di raccontare il viaggio, di raccontare le loro storie, e iniziano praticamente a raccontare quello che il pubblico vuole, e questo spesso e volentieri si riduce in cose da nerd, perché poi fondamentalmente anche YouTube, insomma, subisce questa influenza molto profonda, e quindi l'asse, il semiasse, le ruote, i cosi, insomma, vabbè ragazzi, ma anche stiga certe volte, cioè lo capisco una volta, lo capisco due volte, la terza, quarta, quinta volta mi ha un po' rotto i coglomberi. Prima di parlare del tema, insomma, di cui poi parleremo più avanti se riusciamo a fare questo collegamento, ci sono tantissime notizie che però, come ho detto ieri, non ho letto, non mi sono aggiornato, perché non pensavo appunto di fare questa live questa mattina, però poi alla fine comunque in qualche maniera leggerò, e quindi sarò pronto per la puntata di giovedì, che invece sarà una puntata proprio completamente dedicata al linguaggio e come posso dire, non alla separazione, alla distinzione, alla separazione, al creare ovviamente distinzioni, differenze, ecco, più che altro differenze. Però invece ieri mi ha colpito una cosa, gironzolando insomma sui vari social, di questa ragazzina italiana che sta su TikTok, perché ovviamente adesso in questo momento il problema è TikTok, ma in realtà è relativo, perché TikTok non fa nient'altro che fare quello che fanno tutti gli altri social, ossia amplificare delle problematiche che probabilmente, cioè, che esistono, esisterebbero comunque a prescindere, insomma, da TikTok stesso. Chiaramente poi TikTok, essendo, come posso dire, frequentato maggiormente da adolescenti, chiaramente alcune problematiche sono più enfatizzate rispetto ad altri, perché chiaramente le cose sono molto molto molto più estreme. Ma in realtà il problema di questa ragazza è un problema che ci sarebbe stato anche 30 anni, 40 anni fa, però ovviamente sarebbe caduto nel silenzio, nessuno l'avrebbe saputo, e quindi alla fine nessuno avrebbe parlato. E io invece questa mattina ne parlo, perché non è caduto nel silenzio, ma è caduto in una viralità importante, che è quella di TikTok, che è questa ragazzina italiana che non si sente italiana, e fino a qua potrebbe anche essere interessante come tipo di discorso, ma si sente giapponese, lei stessa ammette di non essere mai stata in Giappone, di non conoscere bene la cultura giapponese, ma il Giappone le manca, è come se fosse la sua vera casa, e Questa cosa la porta a desiderare fortemente di non essere italiana, ma essere giapponese. Poi fa un po' di confusione tra cittadinanza e nazionalità, diciamo così, perché la cittadinanza, vai lì, ti trasferisci, prendi la residenza e piano piano diventi un cittadino. La nazionalità è un discorso un po' diverso. Questa cosa fa molto eco, perché in realtà pare che ci sia stato un altro personaggio, forse americano, che voleva diventare coreano, a tal punto da farsi degli interventi, diversi interventi chirurgici. Quindi parliamo da adolescenti, ragazzi, noi parliamo dei quarantenni, quindi sapete, insomma, poi il problema sta un po' lì, da farsi diversi interventi chirurgici per assumere praticamente i tratti asiatici, no? Quindi i tratti coreani nello specifico. interventi che costano anche diverse migliaia di dollari, probabilmente, ma non soltanto. Io penso che ci saranno dei genitori, no? Perché, ma non perché lui non lo debba fare o perché, per carità, ma magari c'è anche un percorso psicologico dietro, magari è super seguitissimo dai genitori che lo amano, no? Però insomma, io qualche volta me la sarei fatta la domanda se vedo mio figlio che vuole deturpare la sua faccia per essere una cosa che non è, poi fondamentalmente, ma non tanto perché... E allora dici, questa cosa la dovresti dire sui tatuaggi, sui piercing, su tutto. Ma in realtà questo è un discorso generale che non è contro in senso assoluto. È più la rappresentazione, l'identità, no? Quello che questa cosa vuole essere, che a me un po' mi sconvolge. Perché se io penso alla ragazzina italiana, la ragazzina italiana praticamente ammette di essere una super fan dei manga e tramite i manga lei pensa di aver assorbito quelli che sono gli elementi culturali di un paese che non conosce, che è lontana da lei e che culturalmente, diametralmente lontana da lei. E questa cosa, tra l'altro, la porta praticamente a desiderare un qualcosa che poi alla fine probabilmente non è detto che sia compatibile con la sua stessa natura, perché poi c'è anche da dire questo, no? E praticamente questo rifiuto, no? Cioè, nel senso, incomincia a lanciare messaggi del tipo non sopporto più di stare in questo paese che non mi rappresenta più, io voglio il Giappone, mi manca il Giappone, questo è il mio unico desiderio, fino ad arrivare ovviamente, perché poi chiaramente lo fa uno, no? Poi dopo gli vanno a coda tutti quanti, a fare un post dove lei dichiara esplicitamente di essere intenzionata a fare anche lei interventi chirurgici relativi alla modifica ovviamente del suo aspetto, soprattutto dal punto di vista dei connotati, insomma, della faccia, insomma. E questo post poi è stato successivamente ritirato e uno potrebbe fare un pensiero, dice vabbè si è accorta, ha detto una stronzata, dice no. Nel post successivo lei dice ho ritirato il post perché in effetti mi rendo conto che una cosa non farò mai perché costa troppi soldi fare quel tipo di intervento. Cioè qui probabilmente ci sono dei genitori che non riescono a intercettare il problema, però se non altro gli dicono senti, io i soldi per fare sta stronzata non te li do, giustamente, da una parte. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa Michela da madre, che sta stendendo i panni qui in Rantan Radio, però sarebbe interessante sapere che cosa pensa di questa cosa. Dove vai? Dove stai andando? Là, vai là. Vai, un minuto, tanto si tratta solo di un minuto, perché io lo dico insomma anche un po' da esterno, no? Però lei essendo madre giustamente ha l'opportunità magari, ecco, tu... No, sono esterno nel senso che vai. Sei esterno nel senso che non sono una madre, cioè nel senso che quando Matteo faceva con mia corca si dice chiedi a mamma. No, non penso proprio, io troppo me ne sono occupato, insomma. Tu cosa diresti di questa cosa? Direi come i genitori, costa troppo, fatta passare. Se non ti passa, peggio per te. Come tu dici, tendenzialmente come cosa potrebbe anche essere una botta da matto adolescenziale, sì, che ce può sta. Sì. Quindi sì, tu la aspetti che passa. Però giustamente non interverresti. Se non passa quando è grosso e c'hai i soldi per farlo, lo fa, peggio per lui. Oppure anche lo psicologo. Lo so, ma tanto lo psicologo pure lì, se non sei, diciamo così, io ti ci posso portare, perché ovviamente io ti posso dare gli strumenti per aiutarti, io genitore, quindi magari ovviamente... Guarda, Francesco in chat ci chiede, se voglio diventare un cittadino Montero Tondino, che intervento devo fare? Devi fare la faccia da stronzo, quello che funziona bene. Devi chiedere a chi si fio. Devi andare in giro a chiedere di chi si fio, di chi si fio. Vabbè, insomma, quindi tu questa cosa qua. Vabbè, sì, grazie. Sì, io la... Aspetteresti un po'. No, manco aspetterei. Cioè, io direi, oh, che bello, mi dispiace per te, non ci abbiamo i soldi, ciao. Ah, ok. Arrangiate. Okay. Poi parla giapponese, fammi sentire come parli giapponese. Ah, wata. Sta storia mi ricorda molto il discorso... Da svevo, aspetta, me lo leggo con calma e poi ve lo dico. Insomma, vabbè, e questo, vabbè, comunque, grazie, Michela. Prego. Molto umana, può tornare a fare le sue funzioni giuste, le giuste funzioni, insomma. E dicevo, insomma, vabbè, questa cosa mi ha molto, molto colpito perché arrivare, cioè, nel senso, noi quando eravamo ragazzini, noi. Diciamo, le stranezze, anche quelle importanti, succedevano ugualmente, no? C'erano quelli che che si ferivano, c'erano quelli che volevano essere una cosa e quindi magari se si disegnavano in faccia, non so, ce ne sono state. Sì, beh, ecco, c'era un amico che voleva essere vampiro, Michela, quindi insomma, vedi che poi le cose sono sempre successe e secondo me alcune stranezze, alcune immedesimazioni, diciamo, probabilmente sono sempre, sempre successe nella, nella storia, però ovviamente adesso, come abbiamo detto, hanno un risalto. Questa cosa però mi ha colpito perché non è tanto la tendenza della ragazzina ad essere qualcosa che non è o a sognare qualcosa che non conosce che ci sta, è il fatto che, dato che c'è stata un'apripista che comunque chiaramente ha segnato in maniera secondo me negativa la cosa, perché arrivando veramente a fare anche gli interventi chirurgici con tante polemiche che ci sono state, insomma insulti, perché poi ovviamente oggi l'insulto non se nega a nessuno, diciamo così. E la cosa che veramente mi fa specie appunto è che poi anche questo diventa tendenza, perché TikTok, essendo comunque molto fortemente legato ai ragazzini, i ragazzini sono facili da influenzare da questo punto di vista. Ecco, insomma, volevo sapere che cosa ne pensate voi. Ci sentiamo dopo il brano. Anche questo è un brano strumentale, ma è figo, figo veramente, ricorda un po' insomma gli Imagine Dragons che abbiamo messo anche ieri, no? Imagine Dragons, yes. Vabbè, che a me piacciono ma non so come si chiamano, e questa è un po' la questione. Tra l'altro, riflettendo su questa storia, in realtà è un po' come criticare questa cosa, è un po' come criticare coloro che vogliono fare che hanno delle difficoltà, no, dal punto di vista della gestione del proprio genere, no, e che magari si sentono uomini nel corpo di donne, donne nel corpo di uomini, o non appartenenti a una binarità, insomma, no. E se fosse così, in realtà avrei fatto forse ragionamenti un po' diversi. In realtà qui non si tratta di un rapporto intimo con la propria sessualità o con la propria anima, e quindi nell'adeguatezza, nel sentirsi a proprio agio con il proprio corpo, anche se forse poi potrebbe anche entrarci in qualche maniera, però lì è un discorso che è più intimo, è più personale, è più individuale, proprio di stato d'animo. Qui si tratta di una visione culturale di un qualcosa che non conosci, e questo è un po' forse la cosa più rilevante da questo punto di vista, perché non conoscendo realmente quel tipo di cultura, e infatti vengo poi al commento di Leo Vargion, questo può avere i suoi pro e i suoi contro, chiaramente, no? Perché io ti posso anche aiutare a venire incontro a questo tuo desiderio, ma tu sei così sicura a 14 anni che questo sia veramente il tuo desiderio? Sei sicura? C'è qualcosa proprio una certezza che ti dice che quello è il tuo posto piuttosto che questo? Quanto noi possiamo dire qual è veramente il nostro posto nella vita? E vabbè, questo è ancora proprio più complicato. Comunque, Leo dice che sta storia gli ricorda praticamente quella di Svevo Montrasio, poteva chiamarsi in maniera più semplice, del canale YouTube Ritals, o Ritals, non lo so, mai sentito. Li conosce tutti lui questi strani, però vabbè, no, poi lo vado a vedere perché anche a me piacciono quelli strani. Che nel suo libro, vabbè, lui racconta praticamente di questo suo sogno francese, quindi voleva diventare francese, insomma, che una volta ovviamente raggiunto questo suo desiderio, praticamente scatta l'amore e l'odio, soprattutto l'odio per i cugini d'Oltralpe. Beh, allora, innanzitutto un italiano che sogna di essere un francese è giusto, lo va accompagnato fuori, cioè nel senso, prego, s'accomodi, perché insomma non si può sentire. Però è una cosa, è un rischio importante questo, cioè non è tu nella tua vita, durante i tuoi studi, durante finiti gli studi, post università, prima dell'università, comunque per esigenze lavorative, per desiderio, perché vuoi fare una cosa che si trova lì, decidi di andare in Irlanda, negli Stati Uniti, in Germania, qualsiasi cosa, qualsiasi posto ti porta magari quella cosa che tu vuoi perseguire. E una cosa invece è dire: io non sono questo, ma sono quest'altro, anche se non lo conosco, e questa cosa veramente un po' mi disturba. E invece, tornando a quello che diceva Francesco sul fatto di come si fa a diventare Monte Rotondini, in realtà, a parte andare dal chirurgo plastico e farsi la faccia da cazzo, c'è un altro sistema molto semplice. Bisogna avere un figlio piccolo di un anno e mezzo, o un nipote, anche perché va bene anche un nipote, non necessariamente di primo grado, e andare con la fotografia in una tipografia e chiedere, ordinare praticamente di fare un cartellone stradale gigantesco per augurare un buon compleanno per il primo anno di questo bambino, che è una cosa che io devo dire mi impattò molto quando io arrivai a Monte Rotondo oramai 12, 13, 14 anni fa, perché la trovavo una cosa un po', non si offendono gli amici napoletani, ma un po' napoletana, diciamoci la verità, insomma, no? Come la cosa del prediciottesimo, queste cose un po' barbariche che però fanno mercato e quindi va bene. Però in una realtà a 5 minuti da Roma mi faceva strano vedere un po' una cosa così provinciale, un po' pacchiana, perché poi ovviamente questi cartelloni sono pacchiani, no? E però infatti con Michela ragionavamo l'altro giorno che erano spariti questi cartelloni, erano tantissimo e non si vedevano fino all'altro ieri, ragazzi, è ricicciato fuori il cartellone con il ragazzino per gli auguri del buon compleanno. È una cosa, ragazzi, che voi ci scherzerete, voi ci riderete sopra, troverete la cosa, però per me non è una cosa. Io guardate, accetto la ragazzina che vuole diventare giapponese, che se fa pure l'intervento chirurgico, però non posso accettare il cartellone con la faccia del ragazzino gigante con auguri per il tuo primo compleanno. È una cosa di un grottesco, proprio di un pacchiaio, una cosa che io ho sempre stato sui coglioni, proprio una cosa che non sopporto. E quando mi chiedevano tutti come si sta a Monte Rotondo, per me questo era uno delle discriminanti per i quali ovviamente non parlare bene, perché poi per il resto tutto sommato non è che si sta male, no? Però ecco, diciamo che maggior ragione in era Covid questa cosa mi sarei aspettato, diciamo, che già non c'era più, io non l'avevo più vista, devo dire la verità. È vero che, come dice mia moglie, io praticamente non esco di casa, insomma, però insomma diciamo che è una cosa che era tanto che non se ne sentiva parlare, diciamo così, e averla rivista dopo tantissimo tempo mi ha fatto effetto, devo dire la verità, è una cosa che mi ha un po' turbato, diciamo. Ma che cazzo, mo li voglio vedere sti cartelloni, ma pensa che lo volevo fotografare, però stavamo in macchina, però si ricapita, dato che sappiamo dov'è, che non è insomma in un posto isolato, cioè, quindi ci si ripassa tranquillamente e lo fotografiamo, chissà se ci sta ancora, probabilmente sì, insomma non so quanto ogni quanto cambiano sti cartelloni. E quindi Francesco, se ci riusciamo ti accontentiamo, ma veramente una cosa fuori dalla grazia di Dio. Io non me capacito, ma forse più che altro non me voglio capacitare, perché capisco la gioia, no, il voler manifestare, ma sta questa ostentazione che è veramente primitiva. Attenzione, vai lì. Attenzione, perché qui c'è, dicono che c'è un'ultima ora e la cosa mi, non so se devo essere contento. Devo avere paura, attenzione, sentiamo. Prego. Aspetta che mi devo preparare. C'è un'ultima ora, si deve preparare bene, attenzione. Djokovic vince ricorso, potrà essere in Australia a giocare gli Australian Open. Questa è una brutta storia. È una brutta storia sulla quale merita un momento di riflessione, di silenzio, ma secondo non me leggo tutto l'articolo. No, ma secondo me vedrai che il governo lo caccerà uguale. Parete no. Questa è una brutta sconfitta. Momento, brutta questo. Sconfitta. E qui, ecco, insomma, niente, non ho altro da dire. Grazie Michela di questa brutta notizia, grazie. Prego. E quindi buongiorno un cazzo, perché poi alla fine quello è. Esattamente. Potentissimo, spegne la cifra, bravi. Questi sono i non so cosa e col brano non so come si chiama, perché mi è sfuggito il log, quindi però va bene. Figo, vedete Epidemic, ragazzi, c'è cazzo da fare. Mettete, cacciate gli sordi, che se secondo me se mettiamo 10 euro a testa compriamo l'annuale a 300 euro, secondo me ce la facciamo, insomma. Va bene, detto questo invece io vi volevo dire, aspetta, perché questa cosa giustamente Francesco dice vuole che faccia un video su Monte Rotondo come se fosse la, la sigla di Twin Peaks, con la musica, sigla e tutto. Si può fare, si può fare. Devo dire la verità, mi hai dato una bella idea. Devo dire, mi hai dato una bella idea. Sei un piccolo genio del male, ma d'altronde assomigli un po' a Belzebù, Calendo. È stato già fatto, dicono che è stato già fatto. Che delusione questa. Però se non lo trovi, noi facciamo finta che non è stato già fatto. E Walter ci dice che questi cartelloni sono una moda di un periodo. In effetti andavano molto diverso tempo fa, di derivazione campana, e sono passati di moda. La famiglia che l'ha fatta evidentemente è un po' anacronistica, ma sarà un caso, vuole sperare che sia un caso, ma vediamo, perché sai che qui è una questione è come la, come l'uva, no? Prendi un chicco e poi dopo viene giù fuori tutto l'albero dei chicchi, praticamente. Chicchi. Australia, terra che ti vuole morto, di che ti aspetti? Hai ragione, anche tu. Caro Leo, allora, mentre Leo ci sta registrando il suo reportage, sperando poi insomma di riuscire a farlo sentire in maniera decente, io vi devo dire la verità che non ho mai fatto un tampone. Posso dire? Non ho mai fatto un tampone, mai, da quando esiste il Covid. Ho fatto tamponi di altro genere per altre motivazioni, soprattutto quelli alla gola, insomma. C'è stato un periodo in cui avevo un non so che tipo di problema, che tipo di virus c'avevo, cioè, insomma, feci questo tampone, poi mi diedero un antibiotico a largo spettro, sai, figa, fa molto dottor House, l'antibiotico a largo spettro, e sconfissero questo maledetto virus. Tra l'altro era nel periodo in cui siamo stati in Germania con Puccio, se voi vi ricordate, che ogni tanto dicevo che avevo queste febbri importanti, molto veloci, e questa gran tosse. E in effetti insomma era uscito fuori qualcosa insomma di strano, e chissà, magari era un antenato, diciamo un precursore del Covid, chissà, chissà. E poi dicono giustamente del fatto dell'Australia, e vabbè, purtroppo ragazzi la situazione è questa, ma io sono abbastanza convinto, ho questa sensazione che secondo me il governo ci va di puzza, ci va di puzza secondo me, e in qualche maniera annulleranno la magistratura, sospenderanno la democrazia per una settimana solo per questa questione qua, cioè, perché insomma gli australiani sono capaci, sono ancora fiducioso, non lo so, fino all'ultimo voglio essere fiducioso, perché sennò sarebbe una sconfitta morale veramente importante, ragazzi, eh? E poi secondo me il giudice lì è uno di quelli che vuole star al centro d'attenzione, è molto stronzo un giudice che insomma. Allora, credo che la questione non sia ancora finita, ma infatti stamattina leggevo che nonostante appunto l'intervento della magistratura, il governo si è comunque messo di traverso. In realtà non trovo la notizia, dice Francesco, e vabbè, non la trova, poi la troveremo insomma. Quindi dicevo, non mi sono mai fatto un tampone perché devo dire la verità, io non esco praticamente quasi mai. Io e Michele abbiamo sempre fatto mille attenzioni e continuiamo a avere insomma un livello di attenzione sempre molto alta, e soprattutto perché, come ha detto il dottore, se non ci sono motivazioni da contatti diretti o da sintomi specifici, è inutile fare il tampone. E devo dire che fino adesso siamo stati fortunati, nonostante in questo momento abbiamo visto insomma che c'è una situazione abbastanza complicata, mentre qui suonano le maraca mentre io faccio la trasmissione, sbattono cose, boh, vabbè, proprio il nonsense. E la Repubblica, Djokovic, tribunale ribalta la decisione del governo e dà il visto al tennista. Ma sì, ma io ho detto, secondo me ancora da venire insomma sta storia. Quindi vediamo un attimo, dicevo che non ho mai fatto il tampone e quindi non so neanche quello che si prova, ma soprattutto la cosa che mi interesserebbe, dato che oggi quelli che si fanno il tampone in maggior numero sono secondo me coloro che non vogliono vaccinarsi, però hanno bisogno comunque della documentazione per poter andare a lavorare, sempre qualora oggi sia ancora sufficiente quel tipo di discorso, e secondo me nelle file per il tampone se ne sentono di tutti i colori, perché io per esempio quando sono andato a fare la dose booster, la terza dose, e in fila davanti a me c'erano due persone che erano, diciamo, tra virgolette dei Novax, cioè nel senso erano persone che erano assolutamente contro il vaccino, che dicevano noi stiamo pagando la pensione a questi qua che fanno i vaccini, Io lo devo fare per forza perché questi problemi o questi altri problemi, però poi insomma, e se si sente questo durante la fila per il vaccino, figurate che cosa si sente nella fila per avete capito, no? Per il coso lì, per il tampone. E quindi ho chiesto a Francesco, insomma, di fare un intervento in diretta, però visto e considerato che noi pensavamo che finisse prima e ancora invece sta in fila, ci ha mandato il suo intervento. Io spero veramente che si senta bene. Buongiorno al popolo di Runtime Radio, sono Leo Varghion, questa mattina in versione inviato speciale invece di fare il mattino all'ora in podcast, e sono un inviato speciale per quanto riguarda la situazione tamponi nella città di Fermo. Io, per chi non lo sapesse, vivo in, diciamo così, periferia per quanto riguarda la città di Fermo, e questa mattina sono dovuto salire nella città alta per raggiungere il laboratorio analisi per farmi il tampone. Dunque, il disagio più grande che si prova questa mattina sicuramente è dato dalle temperature, che penso, come tutto il resto d'Italia, si sono abbassate drasticamente. Infatti nella notte di ieri c'è stata una bella nevicata che però è stata preventivamente comunque messa sotto controllo dagli spartineve, e infatti le strade sono comunque pulite, anche se una bella spolverata di bianco è passata come se fosse zucchero a velo su un Pandoro su tutta la città. E questa mattina c'erano svariate persone, infatti sono riuscito a prendere un numero penso anche abbastanza privilegiato, ma ho dovuto aspettare parecchio. Infatti c'erano almeno 40 persone prima di me, appena ho preso il numero. Le temperature si stanno leggermente alzando via via che il giorno arriva, ma sono arrivato praticamente che era notte e già il parcheggio del laboratorio era praticamente stracolmo di gente, e la gente sta ancora aspettando di fuori, quindi si sono tutti premuniti di giubbotto, cuffietta, insomma sono tutti belli bardati, ma diciamo che il punto esatto già di per sé è sempre stato molto molto freddo qui nel parcheggio del laboratorio analisi, ma questa mattina veramente le temperature ci stanno davvero uccidendo, ecco, che non è così normale per una città che è situata poco vicino al mare, ma questa mattina abbiamo dovuto arrangiarci come potevamo. Qualcuno è riuscito a fare il tampone in drive-in, quelli che naturalmente lo avevano prenotato svariato tempo prima, quindi quelli che hanno potuto lo hanno fatto direttamente in macchina. Ovviamente i parcheggi sono un po' in disordine in questo momento, infatti chi ha potuto parcheggiarsi più vicino possibile ha dovuto utilizzare un parcheggio veramente veramente di fortuna. Io sono riuscito a prenderne uno neanche troppo lontano. Però per una regione come la mia, che non è estremamente popolosa, per una città che non è esattamente gigantesca come la mia, non è, è un po' insolito uno scenario del genere, ma comunque la situazione qui è abbastanza tranquilla, i tamponi naturalmente scorrono, la fila scorre abbastanza agevolmente, naturalmente i pochi operatori disponibili qui devono fare un bel lavoro. Ma tutto sommato le persone sono tranquille, la gente comunque aspetta pazientemente il proprio turno, quindi c'è ordine. Nonostante la tensione, nonostante le persone comunque vivano questa esperienza come giusto che sia, quindi con un minimo di preoccupazione, ma anche con speranza di non risultare positivi, io stesso spero di non risultare positivo, comunque la situazione è tutta sotto controllo. Ci sentiremo magari più avanti, se volete, per ulteriori aggiornamenti. Ripasso la parola a Simone e buona mattinata a tutti. Girls and the girls. E vabbè, interessante il reportage di Leo, che però io mi aspettavo insomma che ci fossero state delle intemperanze, delle intolleranze, gente che gridava, vergogna, Big Pharma, perché insomma ne sto vedendo tante su YouTube, ancora gente, c'è una tizia a un certo punto che è andata in un contesto, una situazione, dice: io rappresento la Lega Veneta, rappresento 50.000 persone. Io se fossi stato là gli avrei proprio detto, cioè tutte 50.000 proprio inderogabilmente. E vabbè, dai ragazzi, ma qua è una situazione un po' particolare, diciamo, delle polemiche. A volte, come ho detto, io tendo anche a essere comprensivo, cioè comprendo che ci possano essere dei disagi, delle incomprensioni, ci possa essere dell'ignoranza, ci possono essere delle perplessità, io accetto assolutamente tutto. Però poi dopo la stupidità, ragazzi, voi lo sapete, io sono intollerante, veramente intollerante solo a una cosa, la stupidità. La stupidità è una cosa che secondo me non ha dignità di dover esistere, pure insomma il fatto che hanno, cioè pure loro, diritto di campo anche gli stupidi, per carità, però secondo me non, cioè lo stupido dovrebbe essere estrapolato, diciamo, dal contesto del dibattito pubblico, ecco, diciamo così. Tu sei stupido, mi dispiace, ti viene revocato il diritto di esprimere un'opinione, questo è così. Poi dopo sei stupido, hai diritto di campare bene, vivere sereno, essere felice anche, perché insomma tu sei stupido e spesso e volentieri più è facile essere felice. C'è Francesco invece che ci scrive che c'è gente che durante le feste si faceva i tamponi fai da te uno dietro l'altro come se fossero dei gratta e vinci. Ok, ne ho fatti 5, 2 sono risultati positivi, 3 negativi, dai, la maggioranza vince, posso festeggiare il Capodanno con gli amici, e poi ha infettato mezza provincia. Ma secondo me il problema è questo. Allora, io penso che i ragazzi nella prima fase del Covid, molti ragazzi sono stati abbastanza ligi, forse anche un po' la paura, l'aspetto, la novità, diciamo così, di trovarsi di fronte a una problematica così importante, così seria. Poi insomma si è un po' abbassati la guardia, no? Lo vediamo anche in casi molto vicini a noi, per esempio c'è anche chi diceva no, ma io aspetto che mi scade il Green Pass dopo 9 mesi, perché così poi dopo si rinnova, semplicemente perché sono tutta una serie di idee che sono collaterali al novaxismo, no? Che magari non vogliono essere proprio novax, però comunque in qualche maniera devono dire la loro stronzata. E abbassare la guardia comunque in questa situazione, come vedete, poi alla fine colpisce, perché questo è il virus che sta lì dietro l'angolo e aspetta che tu fai una stronzata e ti incula, perché poi questa è un po' la situazione, ed è questo che sta anche succedendo a diverse situazioni intorno a noi, e speriamo che non succeda ad altre persone, perché c'è questa cosa, sì, mo lo faccio, mo non lo faccio, poi mo vedo, mo non lo trovo, e purtroppo il virus sta lì, è pronto ad incularti, non c'è niente da fare, insomma. La colpa è dell'apice della piramide, dice Walter. Sì, vabbè. E niente, vabbè, quindi insomma c'è poi l'amarezza del fatto che nessuno si è picchiato, e questo in effetti ci rattrista un pochino. Vabbè ragazzi, io direi che in realtà sono riuscito a fare un mezzo miracolo a fare questa puntata. E quindi io direi che insomma ce ne possiamo andare tranquillamente a dove è andato il ragazzo. E cercando insomma di avervi, sperando di avervi fatto compagnia in una mattina appunto non prevista, dove ho messo musica così che insomma mi si risparmiassero anche un po' le corde vocali, musica che magari era un po' meglio di quella che abbiamo messo fino adesso, quindi vi ha accompagnato magari meglio rispetto a quanto non è stato in passato. E poi insomma abbiamo parlato, abbiamo discusso anche di queste cose relative al tampone, relative al fatto che comunque da Leo non ci sono particolari polemiche in questo momento, ma e soprattutto del fatto che io non l'ho mai fatto, e della ragazzina che vuole diventare giapponese, dei cartelloni pubblicitari di Monterotondo. E con questo insomma io direi che possiamo anche concludere questa bellissima e simpatica puntata, ringraziando ovviamente Walter, Francesco, Michela, Leo, DJ Joker, che avevo visto e poi non l'ho salutato, mi dispiace, scusa DJ Joker, non t'avevo, cioè t'avevo visto ma poi mi sono un po' un attimo perso nelle varie cose, e ovviamente anche Claudietta, che appunto, come ho detto, sarà parte di Quando eravamo futuro in una puntata speciale che fra qualche settimana faremo appunto su Dottor Who. Detto questo, questa sera vi do l'appuntamento con OGM alle ore 21, sempre su www.runtimeradio.it, e poi tutto il resto della settimana, appunto, vedete che insomma parlare di fila senza avere dell'acqua non è facile. E quindi, e poi insomma, da domani dalle 7 del mattino c'è ovviamente Michela con Disordinati Informati dalle 7 alle 8, e poi tutto il resto della programmazione che già vi ho detto a inizio puntata e che sicuramente Walter Sbano vi ricorderà questa sera a OGM. E invece volevo dire un'altra cosa, sì, che era quella di andare su www.runtimeradio.it, e se vi capita andate sul pulsante Anche Io per dare un contributo a questo nostro progetto che da anni vi fa compagnia e continuerà a farlo finché ne ha le forze, sostenendo ovviamente economicamente il progetto se avete la possibilità, la voglia anche, perché non è detto che sia così importante farlo, sia in maniera ricorrente su Patreon, dando una donazione ricorrente, oppure una tantum, quindi una donazione singola quando e se ne avete voglia su PayPal. Trovate ovviamente su rantemeradio.it sulla scheda Anche Io, insomma trovate tutte le istruzioni per poterci dare una mano, altrimenti insomma amici come prima, e continuate ad essere nostri amici, ma soprattutto ad ascoltare Runtime Radio. Detto questo, vi ricordo che durante l'arco della giornata ci sono tutte il resto della programmazione, quindi Tecnopills di Alex, dietrologia videoludica, Snap e tutto quanto, e stasera c'è ovviamente OGM a ore 21. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, buon lunedì e buona settimana di un cazzo.